Oltre 200.000 persone si trovano per strada martedì 23 novembre. Kiev è pacificamente invasa dai dimostranti, che protestano contro i risultati elettorali che hanno attribuito la vittoria a Viktor Yanukovych, il filorusso presidente uscente, sullo sfidante filoccidentale Lutsenko. I manifestanti sfidano il freddo con le loro bandiere arancioni, simbolo della campagna elettorale di Lutsenko. Molte strade sono state chiuse alla circolazione, molti manifestanti vengono da fuori città e continuano ad affluire. Viktor Lutsenko ha esortato la folla a protestare contro i risultati, mentre le autorità si sono dette pronte a reprimere le manifestazioni, ma alcune unità dell'esercito si sono già dissociate da queste minacce e potrebbero passare dalla parte dei manifestanti. Si profila dunque anche in Ucraina una rivoluzione del tutto simile a quella che nel novembre dell'anno passato ha deposto in Georgia Shevardnadze, portando al potere il giovane Saakashvili. La folla è molto unita, tutti ricordano l'esempio georgiano e si rendono conto che sia necessaria una prova di forza democratica e pacifica. I manifestanti sanno però che anche il potere può essere molto aggressivo, come ha dimostrato nel 2001 la decapitazione del giornalista Gongadze, avvenuta mentre stava proprio investigando su casi di corruzione all'interno del governo. Il confronto oggi si gioca in piazza, molti hanno passato la notte all'aperto, alcuni hanno montato le tende, la protezione non violenta di ogni rivoluzione deve essere la visibilità, la maggioranza che si vede. E la maggioranza ha partecipato alle elezioni che hanno avuto un tasso di votanti del 98%, segno di quanto sia sentita nel paese l'importanza di questo momento. Questa visibilità sta funzionando, sembra già essere passato il momento in cui l'intervento dell'esercito avrebbe potuto fermare le manifestazioni, oramai si è entrati in una fase di contrattazione. In questa fase sembra abbastanza chiaro che il confronto si gioca sopra le teste dei politici ucraini, tra Putin e l'Occidente. Putin è del tutto isolato e forse è anche pronto a capitolare, bisognerà vedere quanto si farà pagare una soluzione pacifica, che per lui comunque significa un'enorme sconfitta diplomatica e l'erosione di un altro Stato dopo la Georgia che si affaccia sul Mar Nero e che è molto importante nel quadro strategico. L'Ucraina infatti, oltre a essere un paese chiave per lo sviluppo del nucleare civile, è anche in linea con il cosiddetto Corridoio 5, una strada di passaggio per petrolio e gas naturale che collega Barcellona a Kiev, passando per Italia, Slovenia, Croazia e Ungheria, con un tragitto complessivo di 1600 chilometri. Putin ha le mani legate, quando tutta la popolazione scende in piazza c'è poco da fare, eppure aveva fatto tutto bene, era riuscito a far vincere le elezioni al suo candidato. In un mondo politico che sempre più frequentemente toglie diritti agli elettori, il futuro della democrazia corre per le piazze. Tito Gandini, Web Magazine, Pramisnet.